Impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Maria Cristina Loccioni. Soluzioni high-tech a misura d'uomo. Diana Marino. La foto è datata di almeno 50 anni e ritrae mio babbo piccolino con alle spalle 20-25 persone, a partire dai nonni in prima fila che erano proprio i padroni di casa e quindi il punto di riferimento di tutte le generazioni. Un'immagine effettivamente che racconta molto, perché è un'immagine che riprende una famiglia patriarcale tipica delle nostre Marche, dove tutto si basava su un profondo rispetto nei confronti dei componenti della famiglia, un legame saldo e basato sulla fiducia, sull'affetto, sul desiderio di impegnarsi per dare un contributo importante alla propria famiglia, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie specificità. Una foto di famiglia, la tipica famiglia italiana del dopoguerra, numerosa, unita. Un ritratto del 1955 di vita e lavoro rurali nelle campagne marchigiane. È il simbolo dell'azienda Loccioni, racconta Maria Cristina, seconda generazione dell'impresa fondata nel 1968, che opera nel settore produttivo dello sviluppo di sistemi automatici per misura, controllo qualità e miglioramento dell'efficienza di prodotti, processi ed edifici. Circa 50 anni fa, suo padre, Enrico Loccioni, decise di mettersi in proprio a soli 19 anni, 11 anni dopo quella foto. Non c'era neppure l'energia elettrica quando il fondatore nacque, nel 49, nella campagna marchigiana, da una famiglia di agricoltori, nel crocevia di tre importanti abbazie della cultura benedettina, Sant'Elena, San Romualdo e San Urbano. Il patrimonio culturale dei monaci benedettini e quello familiare del legame con la terra e il lavoro nei campi sono le radici culturali dell'azienda Loccioni, come ricorda la figlia Maria Cristina. Mio babbo nasce e cresce in campagna, lui è un giovane elettricista che fa dei piccoli lavoretti. La storia della nostra impresa, in realtà il suo spirito imprenditoriale, nasce ancora prima, quando inventò una sorta di strumento con una base tecnica per portare l'acqua all'interno delle stalle, per evitare poi invece di portare gli animali lui all'esterno per bere. Quindi questa piccola invenzione che aveva realizzato a casa è stata una prima soluzione che poi lui offrì a tutti i contadini dei dintorni della famiglia. I primi 20 anni di impresa ruotano intorno all'impiantistica elettrica industriale, cercando comunque i migliori clienti e i migliori collaboratori per portare avanti un'attività a servizio dell'industria. Ma un evento è stato fondamentale per la svolta imprenditoriale dell'attività del fondatore, legata alla figura femminile della moglie. L'impresa che viviamo oggi, da quello spirito imprenditoriale lì, si struttura in maniera più completa nel momento in cui mio babbo, giovane ventenne neanche, incontra mia mamma, altrettanto giovane ventenne, che completa la sua imprenditorialità con un fortissimo senso pratico e un grande orientamento ai risultati e ai profitti. Quindi ecco che l'anima più creativa, più basata sull'immaginazione, sulla creazione di un futuro, va a completarsi con quest'anima più pragmatica. Negli anni 70, Vittorio Merloni è stato uno dei primi a identificare e perseguire il passaggio dalla quantità alla qualità del prodotto. Lavorando con lui e per lui, abbiamo iniziato ad analizzare le nuove possibilità di mercato offerte dalla sfida del controllo qualità, iniziando così la diversificazione dei mercati e delle competenze. In pochi anni, grazie a un gruppo di giovani curiosi e volenterosi, è nato un nuovo ramo dell'impresa, che ha raggiunto presto la leadership internazionale nel collaudo degli elettrodomestici e dei componenti per auto. La sfida più grande sicuramente è stata lanciata da Merloni, perché iniziamo come impianti elettrici e poi negli anni 80 c'è un passaggio all'elettronica che doveva collaudare la qualità dei primi prodotti che poi sarebbero andati sul mercato in una scala molto ampia, e quindi come poter verificare che questi prodotti, ecco, fossero funzionanti prima di essere venduti. I nostri ragazzi inventarono queste soluzioni che però presto ebbero un ambito anche internazionale. Fin dall'inizio l'impresa è stata un intermediario tra la scuola e il mondo del lavoro. trovando negli istituti tecnici e nelle università del territorio le risorse indispensabili per portare avanti lo sviluppo dell'impresa. Innanzitutto i nostri ragazzi sono sempre alla loro prima esperienza di lavoro. Questo nasce inizialmente come una necessità, perché mio babbo e mia mamma non avevano disponibilità economiche per pagare grandi consulenti che apportassero competenze elevate, quindi il loro spunto fu quello di attingere al mondo dell'università. E noi da allora abbiamo sempre collaborato con le università, inizialmente quelle locali e poi quelle anche in un ambito internazionale, e quindi i nostri ragazzi arrivano da noi con un bagaglio di competenze molto elevato, molto qualificato, e da noi continuano l'approfondimento, continuano la ricerca, che sicuramente impreziosiscono il gruppo. Quasi il 50% dei collaboratori è laureato. Il team Research for Innovation conta oltre 40 ricercatori. L'impresa Hi-Tech non investe soltanto sui giovani, ma anche sul territorio. Loccioni utilizza tecnologie globali, ma anche il tessuto locale, fatto di giovani laureati e aziende marchigiane da coinvolgere nello sviluppo di applicazioni per settori a elevato tasso di crescita. Inoltre l'azienda ha adottato un tratto di 2 km del fiume Esino vicino ai suoi stabilimenti. Grazie alla collaborazione degli enti locali è stato possibile avviare un progetto di manutenzione e cura del fiume e ottenere in cambio la possibilità di trarre energia dai materiali vegetali. Siamo accanto a un fiume che ha costituito per noi anche per anni una minaccia, perché poi negli anni 90 è esondato creandoci un grande disagio. Allo stesso tempo però siamo completamente integrati, allo stesso fiume la minaccia è diventata un'opportunità, e mio babbo ha pensato anni fa di adottare 2 chilometri del tratto del fiume per garantire la messa in sicurezza di quest'area. Noi abbiamo delle grandi vetrate che permettono durante il giorno di stare sempre a contatto con la natura. È un'integrazione veramente che dà serenità e che trasmette una grande voglia di dare un contributo, ecco, a questo territorio che dà tanto. Sartoria, tecnologia. Loccioni lavora in molti campi, dal settore degli impianti elettrici alle linee di produzione. E le soluzioni su misura sono nel campo della movimentazione, della tracciabilità e della logistica, e puntano sull'automazione dei processi produttivi. L'obiettivo è la misura per il collaudo e il controllo qualità, ma anche la creazione di nuove attività come start-up o spin-off nell'ambito medico, farmaceutico, ambientale, automotive, della formazione. I sistemi Loccioni sono in oltre 40 paesi del mondo. A noi esportiamo più della metà del nostro, direi siamo intorno all'80% di quello che realizziamo viene esportato in varie parti del mondo, e tutto è realizzato però da noi. L'azienda ha un forte aspetto ludico, incentrato sulla cura del benessere dipendenti e della natura. Il simbolo è la Leaf Community, la prima community ecosostenibile italiana, realizzata intorno agli stabilimenti Loccioni, un laboratorio in cui vengono raccolti i flussi di dati misurati dalle tecnologie dell'azienda. Fare bene e farlo sapere, ma senza dimenticare il carattere marchigiano. Noi marchigiani non siamo bravi a comunicare, però siamo persone che hanno una grande carica dentro. E ora, dopo la storia di Loccioni, quella di una piccola impresa, l'innovazione della settimana, istruzioni per l'uso per chi vuole conoscere la cartellonistica digitale per comunicazioni pubblicitarie o commerciali. Idea Informatica è un'azienda che dal 1985 lavora nel mondo della progettazione di sistemi informativi, sviluppo, installazione, manutenzione, software per il mondo del commercio, con le prime applicazioni nel settore dei supermercati della grande distribuzione. Ha inventato un display digitale chiamato Ideal Signage. Idea anticrisi, ma anche una soluzione per far risparmiare chi vende e chi acquista, ce la racconta il titolare di Idea Informatica, Massimo Panero. La nostra società, che opera ormai da 40 anni nel settore dell'informatica retail, ha evidenziato, grazie ai suoi clienti, l'esigenza di poter realizzare la produzione di display completamente automatizzati per la visualizzazione di prezzi e di informazioni commerciali. I clienti potenziali a cui ci rivolgiamo sono supermercati, catene di distribuzione ortofrutta, florovivaistica, bricolage e prodotti per l'informatica. Il progetto prevede l'inserimento nei punti vendita di un numero variabile, mediamente tra i 100 e i 250, di display digitali nel formato medio di 8-10 pollici, tutti collegati ad un sistema centrale mediante una rete locale o geografica. Qual è stata invece la base di partenza? Da che cosa siete partiti? Di che cosa vi siete resi conto? Diciamo che chiunque lavora in questo settore ha potuto constatare almeno una volta che ci sono dei disagi nella vendita dovuti a magari prezzi non aggiornati o non corrispondenti a quanto effettivamente poi pagato alle casse. È un problema che si verifica spesso. Certo. Per non parlare della difficoltà di ottenere delle informazioni tecniche esaustive dal personale del punto vendita magari non adeguatamente preparato. Quindi diciamo l'attuale dinamica aggressiva del mercato porta in alcuni casi a dover adeguare i prezzi di vendita anche più volte nell'arco della stessa giornata, o a variarne le caratteristiche come provenienza, qualità, confezionamento, tracciabilità dei prodotti deperibili come carne, frutta, verdure, latticini o allergeni o con tutte le informazioni che possono essere legate all'articolo in questione. Chi vi ha aiutato per arrivare a questa idea? Qual è stato step by step il modo per arrivare a questo, diciamo, display della convenienza? Visto il momento di difficoltà che c'è di poter usufruire di finanziamenti da parte di banche o altro, abbiamo proceduto con le nostre forze. Abbiamo brevettato il progetto a livello europeo, il nome che abbiamo dato è Ideal Signage, l'idea legata quindi alla possibilità di vedere ogni singola caratteristica del prodotto e poterne quindi avere un'immediata visibilità a 360 gradi. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.